diretta Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz, modulazione di frequenza stereofonica da Bologna, ma potete trovarci e ci trovate, se siete all'ascolto, anche in DAB, in tutta l'Emilia Romagna, in tutta la Toscana, in tutta la Lombardia, più naturalmente il web dove potete ascoltarci tramite l'apposita app che potete scaricare gratuitamente dal sito radiocittafujiko.it. E potete ascoltarci tranquillamente in tutto il mondo. Città Fujiko Live Club, la trasmissione che ogni mercoledì alle 10.30 propone per un paio di ore di musica registrata dal vivo, come dice appunto il nome della trasmissione, e di tutte le epoche, di quasi tutti i generi. E come sempre anche oggi Città Fujiko Live Club inizia con una novità molto interessante, una novità che non troverete nei negozi, questa è la premessa, perché troverete questo long play, perché è un vinile, sul sito della band titolare di questo long play, che si chiama semplicemente Live in Europe. La band si chiama The Last International. In realtà international, contrariamente a quanto avviene solitamente nella lingua inglese, è scritto con la E, però la pronuncia è praticamente identica. The Last International è un duo che proviene da New York City ed è attivo dal 2008. Delilah Pez è la cantante bassista, Edgy Pires il chitarrista. Sono i due protagonisti della band, che poi si circonda di vari musicisti a seconda del bisogno, a seconda dei concerti. È una band molto politicizzata, i testi sono molto incentrati sulle minoranze, sui poveri, sugli homeless, sui nativi americani anche, e sono abbastanza osteggiati, diciamo, dal mainstream americano, chiaramente. Hanno un suono molto potente e sono veramente trascinanti nei loro concerti, come viene dimostrato in questo album, che è il loro terzo album dal vivo, però i primi due sono dal vivo in studio senza pubblico, per cui il feeling è completamente diverso. In più ci sono nella loro discografia due bootlegs ufficiali che potete trovare sul loro sito, si chiamano This Bootleg Kills, cioè il volume 1 e il volume 2, che hanno parecchie canzoni dal vivo. Come dicevo, questo vinile si chiama Live in Europe. E a proposito di vinile, sabato, naturalmente dovreste saperlo, è il Record Store Day, parlerò fra un po', perché adesso ci andiamo ad ascoltare questi Last International, che hanno fatto appunto questo album che purtroppo non ha dati, non si sa bene, Live in Europe, ok, però non si sa bene dove e non si sa nemmeno quando. In uno dei brani alla fine ringrazia in italiano, grazie, per cui probabilmente questo è stato registrato in Italia, ma non sono riuscito ad avere altri dati. Andiamo però ad ascoltarci il brano che vi propongo in apertura di questa trasmissione, si chiama Wanted Man, loro sono The Last International. Ooh, Can you make me believe again? See, I'm a wanted man. So heaven, heaven, won't you find me? See, I'm a wanted man. I'm a wounded man. See, I wanna free a baby. And if you want a man, well, I wanna break you out. I wanna free you from anywhere. Wanted a man, you'll be a shit is my home. I've been killing whether right or wrong. Si chiamano The Last International, con anche l'articolo Z essenziale. È un duo, come vi dicevo, vengono da New York City, un ragazzo che si chiama Edgy Pierce suona la chitarra e una ragazza che si chiama Delilah Pez suona il basso e canta anche parecchio bene, oserei dire. Il brano che ci siamo ascoltati arriva da un vinile che si chiama Live in Europe, non lo troverete nei negozi come vi dicevo, perché lo trovate solamente sul loro sito, fra l'altro ve lo mandano in 448, veramente abbastanza velocissimi. E il brano che ci siamo ascoltati si chiama Wanted Man. E il duo che compone The Last International mi dà l'idea, mi ha dato l'idea di ascoltarci in questa prima parte della trasmissione dei duo. E a questo punto, data la mia ignoranza cronica, sono andato a vedere sulla Treccani il plurale di duo, che non esiste. Infatti si dice duo anche quando ce ne sono molti, cambia solamente l'articolo da il duo a i duo. Chiusa parentesi italiana, nel senso di lingua italiana, andiamo subito con un duo italiano, la cosa mi fa molto piacere. Cesare Petulicchio suona la batteria, Adriano Viterbini suona la chitarra e canta. Vengono da Roma e sono attivi dal 2006. Fanno un rock blues molto robusto, molto potente. Hanno fatto un extended play qualche anno fa che si chiama Fuoco Lento, che è stato registrato al Circolo degli Artisti di Roma il 14 marzo del 2011. Sono 5 cover su 6 pezzi, ma il sesto pezzo, che è loro, è solamente l'introduzione del concerto, quindi è uno strumentale. Per voi ho scelto una cover di un brano che a me piace tantissimo, un brano di un classico del blues di Bland Willie Johnson, che si chiama Dark Was the Night, Cold Was the Ground, scura era la notte e freddo era il terreno, un brano che anche i Gov Mule fanno spesso nei loro concerti, ma questo è un altro discorso. Questi si chiamano Bud Spencer Blues Explosion, da Roma, detto in italiano, Dark Was the Night, Cold Was the Ground. Thank you. grazie, a presto, grazie infinite, grazie mille. E questi sono famosissimi, si chiamano White Stripes, il loro brano che si chiama Seven Nation Army è diventato un inno mondiale, oserei dire, e però hanno al loro attivo altre cose molto interessanti. Loro venivano da Detroit, sono stati attivi dal 1997 al 2011, Jack White, chitarra, tastiere e voce, Meg White, batteria e voce, come vi dicevo famosissimi, hanno fatto due album live ufficiali più un sacco di singoli con brani dal vivo, e anche sul loro sito potete trovare molti long playing registrati dal vivo, perché il buon Jack White ha fondato un'etichetta discografica che si chiama Third Man Records, e sul loro sito appunto sono disponibili molti album live. Il brano che ci siamo ascoltati arriva da dalla colonna sonora di un film, di un documentario per meglio dire, che si chiama Under Great Northern Lights, si chiama nello stesso modo, e il brano in particolare si chiama Fell in Love with a Girl. Loro erano White Stripes. Yeah. Non erano i Led Zeppelin, che in quanto quartetto non rientrerebbero nella rassegna che stiamo facendo di duo, dal 1994 al 1998, quindi tanti anni dopo lo scioglimento dei Led Zeppelin, Jimmy Page e Robert Plant unirono le forze per un paio di album, uno era in studio e l'altro dal vivo, più un altro paio di singoli con canzoni dal vivo, però quasi tutte tratte dall'album live che vi dicevo. Questo invece si chiama Shining in the Light, è un singolo con due pezzi, e questa How Many More Times, che arriva dalle Zeppelin One, è appunto stata immortalata al di fuori dell'album live del quale vi dicevo. Il tutto è stato registrato al Shepherd's Bush Empire di Londra il 25 marzo del 1998, Jimmy Page e Robert Plant. Ed è molto facile, quando si tratta di duo, imbattersi in duo appunto di sorelle o fratelli. Qui abbiamo due sorelle, Sister Rebecca e Megan Lovell per la precisione, arrivano dalla Georgia e sono attivi dal 2010. In realtà partirono come trio chiamandosi Lowell Sisters, guarda caso, e però a un certo punto nel 2010 la sorella più grande decise di dargliela su e rimasero in due, cammin- cambiare il loro nome, ispirandosi a un vecchio prozio o un vecchio parente che era cugino di Edgar Allan Poe, da qui il nome Larkin Poe. E sono molto molto interessati, una band che a me piace molto, un duo che a me piace molto, e hanno fatto questo mini album, perché non dura tantissimo, dura 35 minuti, si chiama Paint the Roses, che in realtà è accreditato Larkin Poe e Nu Deco Ensemble. È stato registrato a North Beach Bandshell di Miami Beach in Florida il 12 dicembre del 2020. Il pezzo che ho scelto per voi è un medley fra un brano loro che si chiama Back Down South e un brano della Allman Brothers Band che si chiama Blue Sky. Loro invece si chiamano Larkin Poe. Turn your love my way. I said, on the block. Crime was looking up the truth. And as the bombshells of my TV fears explode, I try to trace them to my youth. And then you had to bring up reincarnation over a couple of beers the other night. And now I'm serving time for mistakes made by another in another lifetime. Come on. How long till my soul gets it right? Can any human being ever reach that kind of life? Call on the resting soul. Amy Ray e Emily Sellers vengono da Decatur, un sobborgo di Atlanta, Georgia, e sono attive dal 1985 con la denominazione Indigo Girls. Sono molto coinvolte per quel che riguarda i diritti civili negli Stati Uniti, anche per i diritti LGBTQ, metteteci tutto quello che volete dietro, e sono un'icona di questi movimenti, e a buona ragione anzi. Hanno fatto una serie di album dal vivo, questo è l'ultimo, si chiama Live with the Colorado Symphony Orchestra, e si sentiva. è stato registrato al Mac Auditorium dell'Università di Colorado, appunto, a Boulder, il 5 aprile del 2017. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Galileo. L'ultima cosa che ci andiamo ad ascoltare, mi dà anche il destro per ricordarvi che sabato prossimo è Record Store Day. Ci sono diversi negozi qua a Bologna che partecipano a questa lodevole iniziativa, che però negli anni si è un po' trasformata, ma sarebbe un discorso molto lungo da fare. Background Music Shop all'interno del Gallery 16 in via Nazaro Sauro, Bon Giovanni, ma lo conoscete tutti, in via Ugo Bassi, Disco d'Oro altrettanto conosciuto in via Galliera, Disco Bolandia in via Beroaldo, in quel di San Donato, DJ Paradise in via Andrea Costa, Master Blaster in via Pirandello al Pilastro e Sam in via Oberdan. Sono i negozi che partecipano a questa manifestazione. E nel 2012 pubblicarono un mini album che si chiama Live at Amoeba, i Civil Wars, Joy Williams alla voce, John Paul White alla chitarra, un duo prettamente acustico, vengono da Nashville, però come band, come duo sono stati attivi dal 2009 al 2014 e avevano una propria carriera solista prima di incontrare, dopo lo scioglimento appunto nel 2014 sono ritornati alla carriera solista. Hanno fatto due album in studio e alcuni dal vivo, questo come vi dicevo è un mini album registrato alla Amoeba di Los Angeles, un locale assolutamente la mecca di noi maniaci del disco, ossia vinile che in CD o quant'altro, come si suol dire. Sono stati registrati appunto in questo negozio il 14 giugno del 2011. Il brano che ho scelto per voi si chiama Forget Me Not. Loro sono, forse non l'ho detto, Civil Wars. For me. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, seconda parte iniziata come sempre con la novità che vi propongo in giornata. Oggi un album, un vinile, si chiama Live in Europe. Come detto in precedenza, non lo troverete nei negozi, lo troverete solamente sul sito della band titolare di questo disco, che si chiama The Last International. È un duo che viene da New York City e che ha fatto diverse cose dal vivo, un paio di album, anzi tre ufficiali più una serie di official bootlegs che comprendono parecchi album, parecchi brani dal vivo. Quello che ci hanno ascoltati, spero abbiate riconosciuto una cover, è un classico degli MC5, il famoso Kick Out the Jam Motherfuckers, che è stato una pietra miliare nell'ambito della musica non solo americana. Questi di Last International hanno pubblicato questo album che si chiama Live in Europe, dove non ci sono indicazioni sul dove è stato registrato né dove né quando, per cui la cosa è parecchio deleteria. Ma per fortuna ci sono tanti altri album che riportano data e luogo di registrazioni, e questo dà il via a Recorded Today, la rubrica che è sempre inserita all'interno di Radio Città Fujiko, anzi di Città Fujiko Live Club per meglio dire. E quindi oggi 15 aprile tantissime cose, veramente tante, per cui molto velocemente, perché andiamo ad iniziare dal 1961. Recorded Today si preoccupa di farvi ascoltare i brani nel corso della giornata in cui sono stati registrati, lo dico per gli amici, i nuovi amici toscani, lombardi e anche emiliano romagnoli. Velocemente, come dicevo, andiamo dal 1961. Abbiamo in concerto uno dei grandissimi del piano jazz, si chiamava Thelonious Monk, ha avuto tantissimo successo ed è stato anche molto quotato come compositore, tanto che è, dopo Duke Ellington, il secondo compositore. Le sue composizioni sono state quelle più registrate in assoluto, dopo appunto quelle di Duke Ellington. Ha avuto la sua prima band a 16 anni, ha fatto un sacco di album live, e questo che invece è stato pubblicato molto postumo, dire il vero, perché lui ci ha lasciato nel 1982, e questo è stato pubblicato nel 2014, ma è il concerto completo di Amsterdam, infatti si chiama The Complete 1961 Amsterdam Concert. È stato registrato al Concertgebouw della capitale, no, non è la capitale, scusate, della città olandese, il 15 aprile del 1961. Il brano che ho scelto per voi si chiama Bamshan Swing Thelonious Monk Quartet. grandissimo del jazz mondiale, Thelonious Monk, con il suo quartetto, il concerto di Amsterdam del 15 di, non ci prendo più, auguri, 15 aprile del 1961, Bumps and Swing, il brano che ci siamo ascoltati. Senza ombra di dubbio una delle migliori band italiane di tutti i tempi, se non la migliore, si chiama tuttora premiata Forneria Marconi, detto PFM per gli amici. L'unico membro originale rimasto però è Fras Di Cioccio, il batterista che da qualche decennio oramai è anche il cantante. Loro arrivano da Milano, hanno una storia infinita, perché prima di essere PFM nel 1971 si chiamavano I Quelli ed ebbero un grande successo come, anche come accompagnatori. Negli anni 70 la PFM ha fatto una grossa esperienza americana con una serie di concerti con grande successo, poi si sono ritirati nel loro cantoncino italiano e la cosa secondo me è abbastanza deleteria. Comunque questo è un discorso personale. 10 anni live 1971-1981 è un cofanetto di 4 CD che passa appunto in rassegna brani registrati dal vivo in questi anni. Passepartout è il titolo di un loro album del 1978, ma è anche il titolo del brano che ci andiamo ad ascoltare, registrato a Venezia, non si sa bene, a La Spezia, scusate, veramente sto facendo le cose turche, registrato a La Spezia, non si sa bene dove, però si sa quando, il 15 aprile del 1978, premiata Forneria Marconi. No, Celebration lo facciamo dopo. Adesso vogliamo fare un pezzo dell'album nuovo, un pezzo strumentale che rappresenta molto bene la premiata di oggi. La somma di questi linguaggi si chiama Passepartout. We'll be right back. Renata Forneria Marconi, Passepartout, il brano che ci siamo ascoltati, registrato a La Spezia, 15 aprile 1978. Molto velocemente passiamo al 1987. Abbiamo Stevie Ray Vaughan, titolare di questo album che si chiama semplicemente Solos, Sessions and Encores. Il primo brano è un classico del blues che si chiama The Sky is Crying, che però vede Stevie Ray Vaughan solamente come ospite in un concerto di B.B. King, ospite insieme ad Albert King. Ma tutto questo ce lo dice lo stesso B.B. King, il tutto registrato, come dicevo, a Los Angeles il 15 aprile del 1987. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. And right here we'd like to introduce some new blood. New blood with the blues. I'm talking about the young man that plays the guitar, the new blood, Mr. Stevie Ray Vaughan. How about it, Quinn? Stevie. The first time I ever heard this song and the last time I'll ever sing it, I'll be thinking of Mr. Albert King. Thank you very much. We're going to do our best on this. Turn around. Feeling my woman don't love me no more. together and bring B.B. King up here. Come on, y'all. You can do better than that. Let's give him a big round of applause and get a little taste of this. Come on up here and get your action, man. Pronunciate stanno conficcate in gola e possono far male, meglio lasciarle. Parole comandate che stanno conficcate in gola e possono strozzare, meglio sputarle. Come un animale che non sa capire, guardo il mondo con occhio lineare. Come un animale che sa cos'è il dolore, guardo il mondo con occhio lineare. Come un animale che non può capire, guardo il mondo con occhio lineare. Come un animale che può di morire, cerco un posto che non si può trovare. Come un animale nel tempo di morire, mi accontento di un posto in cui sostare. Come un animale nel tempo di morire. Altra grande band italiana, Consorzio Suonatori Indipendenti, per gli amici CSI, sono nati nel 1992 dall'unione di ex CCP, CCCP ed ex FIBA, e hanno avuto un grande successo, incredibile veramente, a metà degli anni 90. E fra l'altro è previsto prossimamente, in quest'estate credo, un tour di reunion dopo il successo del tour di reunion dei CCCP. Anche loro ci provano, naturalmente. Hanno fatto due album live più due volumi di questa raccolta che si chiama Noi Non Ci Saremo, raccolta che ha parecchi brani dal vivo, tipo questo che è stato registrato al Teatro Valli di Reggio Emilia, sempre praticamente a casa loro, il 15 aprile del 1996, e si chiama Sogni e Sintomi. Il 15 aprile del 2005 al Forum di Londra invece è di scena una band che ha un seguito clamoroso, uno zoccolo duro come si suol dire, e in Gran Bretagna si chiamano Terror Vision, penso che da noi siano abbastanza sconosciuti. Loro vengono dallo Yorkshire e sono attivi dal 1987 con alcuni break dovuti a cambi di formazione e cose del genere. Hanno fatto 6 album dal vivo, questo è il terzo della serie, si chiama For One Night Only, e come vi dicevo è stato registrato al Forum di Londra il 15 aprile del 2005. Il brano che ho scelto per voi si chiama Alice What's the Matter. Loro sono Terror Vision. What's the matter? Loud! Alice, what's the matter? Talk about you and what's been found. Not the wife of a panic, toast on the town. Something about you hits me wrong. Hot cup of coffee, hot coffee cup. Failed on the Saturday, that's easy going. Finally there's a Sunday, come to trouble going. You can see how the melody rain is gone. Looks like someone's dropped the bomb. What's the matter? Yo! What's the matter? Yo! Talk about her, she reminds me of you. Talk about him, they made two. Talk about them, I'll be the other. Nothing else to tell you. Grande partecipazione di pubblico, come avete sentito, con questa Alice What the Matter, uno dei brani di punta della produzione di questo quartetto che si chiama Terror Vision for One Night Only, l'album che ci siamo ascoltati, registrato al Forum di Londra il 15 aprile del 2005. E purtroppo devo tagliare una registrazione del 2023 perché proprio non ci sta. Adesso arriva una registrazione invece del 2018. Prima vi voglio ricordare appunto che sabato è il Record Store Day, parecchi negozi anche qua a Bologna, Background Music Shop, Bon Giovanni, Disco d'Oro, Disco Bolandia, DJ Paradise, Master Blaster, SM partecipano a questa iniziativa, del quale magari un'altra volta parleremo più a fondo perché ha cambiato radicalmente il proprio approccio. Tutto prima dell'ultimo brano, che è ad opera di una band che si chiama New Model Army, anche questa britannica, anche questa con un folto pubblico fedele, un cosiddetto appunto zoccolo duro, ma questo soprattutto nel nord Europa. Infatti loro hanno registrato un sacco di album dal vivo in Germania, ma qui invece siamo in Gran Bretagna. C'è una premessa da fare. Prima del concerto Justin Sullivan, che è il leader della band e l'unico membro originale, ha avuto dei problemi di voce, quindi lui è uscito sul palco e ha detto appunto: io ho dei problemi a cantare, i casi sono due, o annulliamo lo show o cantate voi. E il pubblico ha scelto di cantare. Infatti questo album si chiama Night of a Thousand Voices, la notte di 100 voci, che sono appunto quelle, cioè di 1000 voci, che sono quelle del pubblico. Il tutto è stato registrato al Round Chapel, che è un'ex chiesa di Hackney a Londra, il 15 aprile del 2018. Prima però vi ricordo che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica live ogni mercoledì dalle 10.30 in poi. Naturalmente l'appuntamento per mercoledì prossimo. Vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio in compagnia dei New Model Army e del loro Green and Grey. Ciao a tutti da Nevio. Under tree.